Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Il mio compagno mi parla da lontano. Non riesco a vederlo, ma lui è ok. Si avvicina, ora lo vedo. Lui chiama aiuto verso la valle, una volta sola. The rescue is coming, ci urlano dalla Kufner. Ciao, sono Francesco da Bologna, sono un imprenditore che lavora nel campo delle energie rinnovabili e della gestione energetica. Alcuni anni fa, circa 10, ho avuto un'avventura assai forte ma formativa insieme al mio compagno di arrampicata sul Monte Bianco. Oggi, nella puntata di oggi, vi chiederò una cosa che non si fa. Qualsiasi esperto di comunicazione, di radiofonia, di media ti direbbe: non puoi fare una cosa del genere, non puoi tantomeno aprire una puntata facendo una richiesta di questo tipo. Oggi vi chiederò di fare un piccolo sforzo. Buongiorno a tutti, sono le 16:08 minuti in punto in questo splendido, direi, mercoledì 30 di aprile 2014. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma si chiama Voi siete qui, e lo sforzo che oggi vi chiedo di fare è semplicemente di non prendere in maniera cronologica la storia che vi sto per raccontare. Come ce l'ha mandata lui, come ce l'ha mandata Francesco, questa storia è molto più interessante di quanto non sia, non sarebbe stata se fosse stata appunto in maniera lineare. Comincia qui e finisce qua. Lui parte dal fondo, parte dall'evento più importante, che di solito, no, in una storia è inizio, sviluppo, fine, la risoluzione di tutta la questione. Lui la mette all'inizio, quindi un pochettino la complica, ma secondo me ce la fate a fare questo piccolo sforzo. 349-238-6666, il profilo Facebook del programma, che è Voi siete qui Radio 24, quello Twitter invece, Voi siete qui R24, il mio invece è semplicemente Matteo Caccia. Tutto questo per cosa? Per raccontare la più memorabile caduta della vostra vita. Francesco lo fa appunto a modo suo, come vi dicevo, partendo dalla fine, partendo da quando le cose cominciano a complicarsi, e poi riprende l'inizio. La sua è una mega caduta. Ho pubblicato sul profilo Facebook del programma Voi siete qui Radio 24 le foto prima di lui e del suo compagno di cordata, di cui sentiremo la storia, tranquilli e felici e beati sulla neve dietro le montagne, e poi la montagna dalla quale loro cadono. Quindi questa è una caduta, parliamo in parte, insomma, di alpinismo, direi amatoriale, se mi è concesso il termine da Francesco, poi gli chiederò scusa per questa definizione, ma di persone che vanno a fare una passeggiata in montagna con una certa difficoltà e cadono, malamente cadono, ma sono qua a raccontarle, quindi alla fine tutto va bene. Valgono però tutte le cadute che avete fatto nella vostra vita. 349-238-6666, come quella di Antonio, ad esempio, 11 anni, graziella sotto il sedere, scendo da una scalinata a tutta birra, taglio un incrocio e mi schianto sul motorino di una vecchia che passava di lì ignara. Risultato, motorino spezzato a metà, per dire la graziella. Un volo di 2 metri, 2 giorni in osservazione all'ospedale, la vecchietta è stata più fortunata. Grazie al cielo si era cavata solo con qualche scoriazione. O ancora Andrea, quella volta a sciare con il mio amico Lucky, pista libera, io e lui, iniziamo la discesa e poco dopo scontro frontale, risultato un braccio rotto lui, commozione cerebrale io. Ecco, la più memorabile caduta, la memorabile caduta della vostra vita. 349-238-6666. Pronti per lo sforzo? Partiamo dal fondo e andiamo verso l'inizio. Il volo non finisce. Scivolo sempre più velocemente sulla neve. Ho ancora le picozze. Sono nella posizione giusta. Le premo entrambe nella neve. Non penso ai ramponi. Mi fermo. Fantastico. Ma è solo un attimo. Ormai ho già tirato giù il mio compagno ed ora lui mi ricambia il piacere e mi strappa giù di nuovo. Voglio di nuovo le picozze mentre ricomincio a prendere velocità, ma ho solo in mano le dragonne. Poi il primo salto nel vuoto. Dio fa che non ci siano le rocce sotto. L'urto di nuovo e scivolo, è ancora più veloce di prima. I ramponi, posso provare ad usarli, non dovrei, ma ora non ci sono più regole, voglio solo fermarmi. Li pianto e mi giro a testa in giù, come da manuale, ma mentre giro di nuovo saltiamo nel vuoto. L'urto è violento, urlo di dolore e mi fermo. Dio, sono arrivato fino in fondo. Il dolore alla gamba è fortissimo, tutto il resto non conta. Il mio compagno mi parla da lontano, non riesco a vederlo, ma lui ok, si avvicina, ora lo vedo. Mi aiuta a raddrizzarmi, la gamba è lì, storta per i fatti suoi. Urlo di nuovo per il dolore. Lui chiama aiuto verso la valle, una volta sola. The The rescue is coming. Qualcuno ci urla dalla Kufner. Noi stavamo percorrendo la via Kufner, che è una via di alpinismo classico, una grande classica della via alpinistica, diciamo, sul Monte Bianco, va dal ghiacciaio del Monte Bianco, arriva alla seconda cima del Monte Bianco, che è il Mont Maudit, che poi ho scoperto essere, voler significare Monte Maledetto, ma l'ho scoperto quando ero già in ospedale. Eravamo quasi alla fine, eravamo già passati nel versante normale del Monte Bianco, per fortuna, perché se cadevamo dall'altro lato oggettivamente non avevamo la minima speranza. I pensieri corrono stupidi, senza alcuna priorità. Vorrei i miei occhiali e il cappello. Cerco di convincere il mio compagno a togliermi lo zaino e a sfilarmi la corda. Lo zaino lo toglie, la corda verrà tagliata con l'imbrago da uno del soccorso. L'elicottero arriva subito, forse neanche mezz'ora di attesa. Vista la gamba, mi chiedono se voglio un dottore, io ne vorrei mille. Saputo che siamo italiani, mi dicono le solite cretinate su Baggio, Maldini e compagnia. Accetto e sorrido. Il medico arriva, mi infila la flebo mentre sono ancora sulla neve. La morfina mi fa stare subito benissimo. I due del soccorso intanto scavano una buca a fianco a me e ci infilano la barella tipo cucchiaio. Poi mi mettono la stecca gonfiabile intorno alla gamba destra. Uno strappo e sono in aria. Fuori dall'elicottero e poi mi infilano dentro. E poi in ambulanza. E sono in ospedale. Ci deve essere anche il mio compagno, ma io sono fatto di morfina e non capisco niente. Mi hanno già fatto i raggi. Il femore è rotto in più punti. Mi devono operare. Un sacco di domande. L'anestesista mi dà la buonanotte. Buio. Ore 2, mi sveglio. Siamo al rifugio. Abbiamo dormito un'ora più del previsto. Niente colazione, tanto probabilmente non riusciremo a mangiare nulla. Partiamo e già siamo in mezzo ad altre cordate. Alcune molto indietro dal rifugio Torino puntano verso di noi. Il cielo è coperto e la luna, che dovrebbe essere piena, non riesce a bucare le nuvole, ma la visibilità è ugualmente notevole. L'ambiente è lunare. Arriviamo in cima. Sono le 3:30. È bellissimo. Tutta notte ha scaricato. Oggi sembra che un gigante impazzito batta i pugni sulle pareti, come per terrorizzare quei matti che cercano comunque, su più vie, di salire al bianco dal versante italiano. Per tutto il giorno sarà un continuo di valanghe e slavine. Ci fermiamo una volta sola per 3/4 d'ora per mangiare e bere, perché non ce la facevo più. Ci siamo fatti 1 litro d'acqua e il tè. Arriviamo all'uscita sul mammellone che porta salendo 100 metri al colle, da cui inizia l'ultimo pianoro e la salita di misto finale. Se continuiamo a salire ne avremo almeno per 3 ore e poi dovremo tornare attraverso il Col du Midi fino alla tenda. Non possiamo farcela in giornata. Sono le 18. Inizia a nevicare. Perfetto, così se nevica tutta la notte la traccia verrà cancellata e domani avremo neve fresca. Attrezziamo il bivacco in un punto che sembra molto riparato. Le rocce formano un muro di 3 lati. Poi però scopriremo che l'aria entra urlando proprio dal lato mancante. Stendiamo un telo spaziale sotto e cerchiamo di sederci e di coprirci col secondo telo spaziale. Prima distanti, poi praticamente abbracciati. Arrivano le 23. Un freddo notevole. Il telo ci ripara, ma tutti i muscoli ballano da soli. È mezzanotte. Il ghiaccio dovrebbe essere sufficientemente duro. E lontano cominciano ad apparire lampi e fulmini. Con questo freddo, l'idea di ripartire sembra ottima. Tutto nello zaino, ramponi ai piedi, pronta la corda, si parte. Noi abbiamo dovuto bivaccare ad alta quota, eravamo già sicuramente oltre 4.000 metri, non è una situazione normale, non avremmo dovuto farlo, era legato sicuramente al fatto che noi eravamo troppo lenti, quindi la via non siamo stati in grado di concluderla in giornata. Però avevamo già esperienza, diciamo, di come gestire situazioni anche di questo genere, quindi quello non fu in realtà un problema, fu solo una grande, diciamo, un grande freddo tutta notte. Vado avanti io, lui fa sicura, risaliamo, qui il ghiaccio è buono. Passo di versante e la neve è ancora fradicia. Nebbia e caldo, in questo versante l'aria è rimasta calda tutta la notte. Non c'erano le correnti ascensionali che hanno portato il freddo nell'altro. Facciamo 3 tiri di conserva, poi ci rendiamo conto che è peggio di ieri. Il temporale è ormai tutto intorno. L'elettricità suona intorno a noi dei sibili sinistri. Impossibile andare avanti, sarebbe un suicidio. Si torna al punto freddo ma sicuro fra le rocce. Durante il ritorno il mio compagno scivola 2 volte e sempre si ferma. Io scivolo per 3 metri, ma con le picozze e la corda mi fermo anch'io. Nell'ultimo tiro, quando lui è già al sicuro fra le rocce, alzo la picozza dalla neve e sento chiaramente la scarica del condensatore che si avvicina. La ripianto con tutta la forza che ho e la ricopro di neve. L'energia tace. Riparto, arrivo al bivacco. Da dove sono riesco a sprazzi a vedere la tenda in mezzo al ghiacciaio. Più in giù la strada e più in giù ancora il paese. Devono essere posti meravigliosamente caldi e confortevoli quelli. Intanto si sono fatte le 2, non ce la faccio più a stare fermo, devo muovermi. Mi sento la febbre a 40, chiamo il mio compagno, è d'accordo, si parte. In un'ora giungiamo in cima al Mammellone, una breve discesa e siamo al colle fra il Mammellone e l'anticima del Mont Maudit. Qui ormai sono le 4. Decidiamo di fermarci e farci il tè. Una tazza di tè caldo, ottimo. Un po' di latte condensato, poi di nuovo tè caldo. Come colazione niente male. Alcune cordate intanto risalgono al versante francese o vanno al Bianco o al Maudit. Mentre le guardiamo, parte una proposta infelice. Perché non andiamo in cima, visto che siamo già qui e che il tempo è buono? Lui è d'accordo. A parte i pochi minuti di relax del bivacco, sono ormai 26 ore che siamo in parete e varie ore ci separano dalla nostra tenda. Come si fa ad avere un'idea così stupida come quella di proseguire per la cima? Partiamo. Lui è stranamente taciturno. Non fa neanche le foto al Mammellone, come gli chiedo. Siamo al penultimo tiro. C'è da passare un piccolo crepaccio. Faccio sicura, poi lui va. Punta dritto alla base delle rocce, ma stiamo procedendo proprio male, siamo troppo stanchi. Glielo dico, ma non mi risponde. Poi dico: senti, vengo a tirare io l'ultimo pezzo. Gli arrivo di fianco, ma ormai stiamo stupidamente abbandonando da un paio di metri la traccia. Ora devo scegliere se proseguire su roccia o tornare indietro, sulla traccia più tranquilla. Ma mentre decido, mi sbilancio, perdo l'equilibrio e cado. E il volo non finisce. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my wandering, but I know what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Sono ovviamente sulla neve i due protagonisti di questa storia, cioè Francesco e il suo compagno di cordata. Sono esattamente, come vi dicevo prima, sono sul nostro profilo Facebook entrambe le foto. Questa però in particolar modo sono loro due, allegri, abbastanza lontani, in posa col monte alle spalle e due begli zaini pieni sulle spalle. Ho detto spalle 2 volte nello stesso secondo. Pronto, buongiorno Francesco. Ciao Matteo, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene, perfettamente. Dove ti trovi? Adesso sono in ufficio e mi sono messo nella saletta riunioni in tranquillità per poter ascoltare e chiacchierare. E esattamente dov'è il tuo ufficio? È a Bologna, sui viali di circonvallazione. C'è tempaccio anche lì oppure? No, c'è... noi in questo momento abbiamo un po' di nuvole, un po' di sole. In questo momento c'è una bella luce di sole che entra dall'ufficio. Qui invece sembra dicembre. Non lo dico perché ho capito, mi è arrivato un messaggio prima al volo mentre aprivo la puntata, forse perché ho detto è una splendida giornata, un splendido mercoledì di aprile. Giovanni mi ha scritto: ma come? Ma il programma è registrato? E poi mi hanno fatto Margherita e Paolino mi hanno fatto capire che forse si riferiva al fatto che avevo detto che era una bella giornata, invece fa abbastanza schifo. Ma Francesco, veniamo a noi. Innanzitutto, quanti anni fa succedeva questa cosa? Questo era il 1994, direi. E quindi parecchi anni fa. 20 anni fa, esatti, sì, direi. Sì, sì, sì. In questi 20 anni sei tornato in montagna. Hai voglia. Ok, scusa. scemo io a pensarlo, scusami. Giustamente. Senti, diciamo, per una persona normale che non va in montagna, voi sostanzialmente, provo a farla a breve, no? Voi partite dalla vostra tenda, arrivate in cima, però ci sono dei problemi, vi riparate fra le rocce, dalla vostra parte ghiaccia, però la neve è buona, perché quando è ghiacciata è buona, giusto? Esatto. Intanto si è fatta notte, attraversate, invece di là faceva caldo, quindi la neve è molle. Tornate indietro dove c'è quel bivacchino che avete fatto tra le rocce, tu aumenti, prendi un fulmine, giusto? Sì, sulla picozza. Problema, esatto. Okay. Tutto quello che è metallico. Benissimo, quindi la piantina nella neve, vi riparate e a un certo punto, quando potreste scendere, dite: ma sai cosa? Ma andiamo su fino in cima. Esatto. Quanti anni avevate esattamente, scusami? Ah, beh, 20 anni fa avevamo poco più di 30 anni. Ok, senti, visto che siete qua a raccontarlo è andata tutto bene, però è stato un bel volo. Sì, è stato un volo notevole perché ero su un pendio per fortuna ed era dal lato francese, perché se era dal lato italiano non avremmo avuto speranze. Il lato francese è lungo svariate migliaia di metri, noi ne abbiamo probabilmente, siamo caduti, scivolati per 200 circa. C'è una foto che è la foto che ci hai mandato tu, che ho messo sul profilo Facebook, voi siete qui Radio 24, in cui tu proprio indichi, giusto, punto esatto da cui siamo caduti. E lì si vede proprio il punto, noi dopo siamo tornati, li provo a vedere anche con la funivia, si va su e si vede proprio, fa abbastanza impressione, diciamo, perché poi è un panorama che cambia di periodo in periodo, perché dipende dalla forma del ghiacciaio e quindi cambia. Ci sono però sempre dei crepacci sotto che sono quelli che in realtà ci hanno salvato, perché siamo caduti, il crepaccio rappresenta un punto, forma delle specie di terrazzine, noi siamo andati a sbattere su un terrazzino e ci ha fermato. Quindi diciamo, però, guardando questa foto, voi siete caduti dalla parte della neve, ovviamente. Esattamente. Cioè, perché di là non... Venivamo dall'altro lato, avevamo scavallato, okay. E eravamo praticamente su quella che è la normale al Monte Bianco, diciamo. Infatti in questa foto si vedono anche giusto due persone piccole piccole che salgono e c'è proprio una traccia nella neve. Quanto è durata la caduta, se riesci a dare una stima? Ma adesso diciamo, la caduta è stata parecchio impressionante, non posso dire esattamente di quanti secondi si è durata. La cosa impressionante è stata che, diciamo, facendo le manovre di sicurezza sono riuscito a fermarmi per un attimo e non ci credevo neanche io, ecco. Tant'è che quando poi il mio compagno mi ha ritirato giù non sono stato bello peso. E certo, perché c'è anche questo particolare, no? Che se tu riesci a fermarti poi dici: oh no, siamo legati, sembra un film di Chevy Chase, no? Ce l'ho fatta, poi no, c'è anche lui, brum, e giù di nuovo. Abbiamo fatto così. Lui invece si è fatto praticamente nulla. Sì, quasi non l'avevo avuto la fortuna di sbattere, tra virgolette, solo la faccia, si è rotto un dente e poco più, ma io mi sono rotto il femore piantando i ramponi, che è un'operazione però... Sì, anche quello lo racconti abbastanza bene, cioè dici, vabbè, è anche istintivo immaginarlo, da fermo seduto, no? Che se pianti i piedi ti capotti e fai un po' di capriole. Vai ancora in montagna adesso, ci sei andato? Sì, ma hai in mente altre pareti? Sì, ovviamente. Cioè. Anche oggi sono andato a correre perché bisogna cercare, nonostante il sovrappeso, di rimanere un po' allenati, perché... adesso in luglio sicuramente andremo a fare qualcosa, probabilmente non così impegnativo come facevamo alcuni anni fa, però insomma. Tipo cosa vai a fare? Mi dici un nome di una cima così, giusto? Ma pensavamo al Castore o al Polluce nel gruppo del Monte Rosa. Già i nomi sono straordinari, non ho idea quanti metri sono. Sempre oltre 4.000, però sono più facili come sono passeggiatone su ghiacciaio. Il mal di montagna ti viene ancora? Non ti viene più? Ti viene a volte? Diciamo, io non ho quasi mai sofferto, diciamo, mi dà poco fastidio, tant'è che sono abbastanza famoso perché arrivo nei rifugi anche in alta quota e spero molto nei spaghetti alla carbonara, ah, okay. Nel brodino, okay. Mentre altri bevono solo, diciamo, non ho un grande, non mi dà fastidio. Ecco. Io l'ho già raccontato più volte, quindi risparmio tutti gli ascoltatori dalla mia salita al Gran Paradiso con Tiziano Bonini, in cui appunto sembrava uscito dalla crisi del 29. Io ti ringrazio molto Francesco, ti auguro in bocca al lupo per tutto e insomma ci sentiamo, magari se sei libero, tu capiti a Milano, giusto, qualche volta? Sì, e allora certo. se magari sei libero a fine giugno, quando facciamo il live, vieni a vedertelo, insomma, una sera di fine giugno, appena sappiamo la data precisa, abbiamo già un'idea, appena la sappiamo te la facciamo sapere. Sicuro, fantastico. Grazie, okay. Ciao Francesco. Ciao, grazie mille. 349-238-6666, io lo so che Paolino Scorleoni sta cercando quel file, ma spero che sia stato definitivamente cancellato. Sulla Tuscolana, caduto travolto da uno scooter. Temo il peggio, ma siamo illesi. Come si dice a Roma, ci ha pensato Santa Pupa, Roberto. Che non so cosa voglia dire, ma suona ovviamente come gran parte delle definizioni romane benissimo. Caduto mentre giocavo a golf. Rottura tendine rotuleo, tipico degli sciatori. Tutto il pronto soccorso mi prendeva per... per festa ovviamente. Gianni da Brescia. E poi ancora, in bici con mio padre, seggiolino, 2 anni, si parla di 30 anni fa, discesa del box, salto fuori in cima, rotolo fino in fondo, mi sbuccio un dito, il resto rimango illesa, ma caduta molto creativa. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi. Io vi ricordo che potete ascoltare il podcast del programma tutti i giorni dal sito di Radio 24 scaricandovelo, o altrimenti da iTunes o comunque vogliate, altrimenti alle 16 in diretta o alle 5 e un quarto della mattina in replica. Grazie a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Francesco, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Stefano, vivo a Barbiano di Cotignola, la storia di domani è la mia e parleremo di Gedeone. Questa è la mia storia e io sono qui.